perché finora farmi languir così? Perché, crudel, farmi languir così? Dunque in giardin verrai, se piace a me, e non mi mancherai, no, no, non mi mancherai, verrai, sì. Non mancherai, no, non mancherai, non mancherà, no, non mi sento da contento pieno di gioia il cuore. Scusatemi se mi sento da contento pieno di gioia il cuore. Un tuo in giardin verrà si piace a voi e non mi mancherai. Verrai, sì. Non mancherai, no. Dunque verrai, no, no. Se viaggio con voi, non mancherai, no. Dunque verrai, sì. Non mancherai, sì, sì. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto ciò va un raggiro. Il colpo è fatto. Che manca desio e posero. vedrò per man d'amore. Unita un vireo getto, in me d'eston affetto, che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, vedrò, vedrò, vedrò. Farò lasciarti in pace, non ho questo contento. Nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vedette mie quest'anima consola e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa. Oh, che lasciarti in pace non può questo contento, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancora per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vedette mie quest'anima consola e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa, e giubilarmi fa, e giubilarmi fa. Son storpito, e diversa il libro a partir. Oh, padre. Suo padre. Tuo padre. E quella è mia madre che a te lo dirà. Mia madre che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà. Momento di questo momento. Stop!